Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, gentili ascoltatrici, buonasera. Eccoci qua. Ormai l'estate si sta avanzando, vero Antonio? Sì. Ecco, e allora Antonio e Gesi vi salutano calorosamente. Esatto. Sì, e anche perché insomma sono sempre vicino a voi, sempre contenti di farvi compagnia e che il programma piaccia. Stasera avremo con noi il dottor Marco Zabotti. Adesso sì, noi lo presentiamo. Buonasera dottore. Buonasera. Grazie. Di aver accettato l'invito. Grazie a voi. Ecco, adesso diamo la parola al nostro Antonio e poi la canzone e poi... Benissimo, allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Ricordiamo per chi lo desidera che anche c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Un piccolo inciso, vogliamo condividere con voi la gioia così e la sorpresa anche. In poche settimane siamo passati da 5.000 a 6.000 contatti su internet. Non abbiamo altre parole che non un ringraziamento, un abbraccio collettivo per tutti voi e un saluto cordiale al nostro regista. Al nostro regista. Si vede che la nostra trasmissione... Ma noi tentiamo il tutto. Ce la mettiamo tutta. Benissimo. Allora andiamo con la prima canzone. D'accordo. Con Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il dottor Marco, e al quale adesso chiediamo di raccontarci un pochino di sé. Grazie, un caro saluto a voi e un grazie rinnovato per l'invito a cui ho aderito ben volentieri. Anche perché, come dire, visto la tematica, siamo veramente in casa, devo dire. Bene. Che oggi a dire casa Toniolo vuol dire esattamente un legame profondo con l'argomento che poi in qualche modo andremo anche a esporre. Ecco, io ho Marco Zabotti, ho 51 anni, risiedo, nato e risiedente a Pieve di Soligo, sposato con Maria Regina, ho 3 figlie, Beatrice, Eleonora e Sofia. E sono laureato in giurisprudenza, giornalista da 30 anni, iscritto all'Albo, opero nel campo della comunicazione e in particolare, dopo posso dire che ho avuto anche esperienza, visto che siamo a casa Toniolo, sappiamo che sono sede importanti anche di associazioni, certo. Ho sviluppato un lungo periodo di formazione di responsabilità nell'Azione Cattolica, diocesana di Vittorio Veneto in questo caso, è la mia diocesi, quindi ho fatto il vicepresidente giovani, il direttore, attualmente ancora direttore del periodico, del mensile di collegamento Il Nostro Impegno, ho fatto parte della... e poi ho avuto un nuovo impegno in campo culturale, sociale, ecclesiale ancora, che continua. E poi questo è diventato nel 2005 un'esperienza, la prima volta mi sono candidato a livello politico, sono diventato consigliere regionale del Veneto dal 2005 al 2010, capogruppo della lista civica per Veneto, sì. Con Carraro, rappresentante, ho animato tutti i percorsi delle civiche a livello Veneto, non solo, e nel 2011, conclusa questa esperienza, sono stato candidato a presidenza della provincia di Treviso, sono attualmente consigliere provinciale, capogruppo di Marca Civica e vicepresidente della Commissione Cultura e Sociale. Questo così. Qui ci siamo e chiudo immediatamente per dire che c'è però un aspetto culturale, come dire, anche di personale, che è un legame, ecco, profondo, che deriva in parte soprattutto dalla vicenda poi del collegamento con la mia città, con la mia parrocchia, che è l'attenzione per la figura e l'opera del beato Giuseppe Toniolo. Ah, bene. Sappiamo che le spoglie mortali proprio del beato Toniolo sono custodite nel Duomo di Pieve di Soligo. Esatto. E allora c'è stata da questo punto di vista, sin dalla mia giovinezza, insomma, un'attenzione culturale, religiosa, insomma, ecco, morale attorno a questa straordinaria figura di laico cristiano. E mi sono adoperato poi negli anni molto, facendo parte sia come parrocchia prima ma anche poi a livello istituzionale del comitato per la beatificazione che è presente, che ha operato e che opera nella diocesi di Vittorio Veneto. Siamo riusciti con una serie di così, con un lavoro costante, molto determinato, in un periodo non facile, perché pensare che insomma Giuseppe Toniolo, dopo tutta una lunga esperienza, era stato in qualche modo dimenticato, ecco, nel post-concilio, diciamo, era una figura sì. Che invece noi ci siamo, abbiamo creduto molto quando c'è stata la ripresa da causa di beatificazione a livello nazionale, con l'Azione Cattolica Nazionale, la FUCI, l'Università Cattolica, le 3 diocesi di Treviso, Vittorio Veneto e Pisa. Abbiamo operato molto, insomma, ecco, dal punto di vista sia della divulgazione delle opere, del suo pensiero, anche di creare occasioni per una devozione popolare, per esempio la Santa Messa ogni 7 del mese. Lui è nato il 7 marzo, è morto il 7 ottobre. Abbiamo deciso come comitato che il 7 del mese ci potesse essere. Infatti noi siamo nel 2015, noi ricordiamo i 170 anni della nascita di Toniolo. È nato il 7 marzo 1845, è morto il 7 ottobre 1918. Quindi ha vissuto abbastanza. Ha vissuto abbastanza. Sappiamo, è nato a Treviso. Esatto, nato a Treviso, una lunga laureato a Padova, una prima esperienza di insegnamento di diritto a Modena, poi 40 anni di economia politica a Pisa. Lì è morto, ma poi lì lui, per le sue volontà, avendo sposato una Schiratti di Pieve di Soligo, ha voluto un'espressione, una famiglia molto, molto in vista, di lunghe tradizioni anche civili, certo. Eccetera. Lui ha voluto, ha detto nel suo testamento, voglio essere sepolto a Pieve di Soligo perché là i semplici potranno porre dei requiem sulla mia tomba. Straordinario. Allora lì è stato messo, quindi sepolto a Pisa, portato poi l'anno dopo nel cimitero di Pieve, e poi da lì traslato nel 30 con una solenne celebrazione col patriarca Piazza, allora con 300 sacerdoti, una moltitudine di popolo, trasportato nel Duomo di Pieve, questa salma. E lì è rimasto, come dire, custodito in una nicchia, appena entrati nel Duomo sulla destra, era stato già allestito il sarcofago marmoreo. Poi nel 2012, quando c'è stata la solenne beatificazione a Roma appunto del Toniolo, lì è stata quelle, prima era stata riesumata la salma, eccetera. Adesso le reliquie sono esattamente poste in quel sarcofano nel Duomo di Pio Isoli. Straordinario. Che poi diciamo è una figura di economista, sì. un settore dove naturalmente esatto. lo starco del diavolo. Noi oggi lo sentiamo particolarmente. Sembra un eretico quasi. Esatto. Noi non ci facciamo distrarre dal fatto che è nato nel 1818. Sembrerebbe come dire un pensiero, un'esperienza lontana. Sì, esatto. Noi oggi siamo più che mai convinti, poi magari parleremo anche certo, di tutto quello certo. che sta nascendo, sì, che è nato attorno a questa figura, della sua straordinaria attualità. È una figura di cristiano laico a tutto tondo. Sì. Cioè, un uomo che ha, come dire, si è radicato nella dimensione di Dio totalmente, sin dalla sua giovinezza. La sua frase era voglio farmi santo, e c'era il tema dell'anelito alla santità. Una determinazione straordinaria. Fatta con suo diario, con una sua serie di indicazioni che faceva dal punto di vista personale, esteriore, negli studi, nelle relazioni, nella famiglia, eccetera. Cioè, veramente era una persona che da questo punto di vista aveva questo, e l'ha espresso, l'ha manifestato. La sua vita è stata coerentemente una vicenda legata al Dio e legata all'uomo. Ah, è stato figura. Un modello di papà, di sposo, perché sì, oggi bene. Parliamo tanto di temi della famiglia, noi abbiamo bisogno di figure che ci richiamino questa, la bellezza ecco, di questa, dell'istituto familiare vissuto tra sposi in un mutuo auditorio, come lo chiamavano. Quindi la lettera con cui lui, il 1 novembre 1867, chiede la mano a Maria Schiratti di Pio di Soligo e passa attraverso la mediazione del parroco di allora, di Sebastiano De Zorzi. Sì, ed è una lettera piena di ogni delicatezza, di tantissimi sentimenti. Ma in cui sembrano cose datate, invece quando ne parlo ai pellegrini esatto, che vengono esatto. a Pieve, in tante conferenze abbiamo fatto, di una c'è qualità, come dire, proprio c'è di una nostalgia per tanta finezza, per tanto, sì, amore, sì, per tanto amore. Bellissimo. Ecco, poi c'è la figura del docente e del grande educatore. Perché lui è stato un economista che ha vissuto gli anni della cattedra universitaria in un ambiente Pisa massonico, ostile, molto difficile. Lui con la schiena dritta, da cattolico non integralista, non un cattolico che esibiva, ma un cattolico vero, tenace, pugnace nelle sue convinzioni, nella sua testimonianza di fede, ma soprattutto nella sua capacità e competenza di relazione, di intanto di insegnamento, perché il tema erano dell'elemento etico quale fattore intrinseco della legge economica, della serie, l'economia, il primato dell'etica sull'economia, il primato dell'uomo sulle dimensioni economiche. Etica ed economia. Come dire, oggi, sì. se i meccanismi finanziari e economici avessero seguito queste indicazioni, molto probabilmente... Non oso pensare quasi. Forse allora, qui niente. Adesso. Allora andiamo alla seconda canzone, ci fermiamo 2 minuti, poi riprendiamo. Allora, con Giorgia ci ascoltiamo Di sole ed azzurro. Voglio parlare al tuo cuore. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite al quale lasciamo la parola. Sì, stavamo appunto dicendo che Toniolo si configura anche così con la dimensione veramente di un grande, di una personalità molto molto attenta alla dimensione appunto dei temi legati alla dottrina sociale della Chiesa, ma insomma i temi importanti, soprattutto il primato dell'etica sul corpo, l'uomo a fondamento, e quindi, come dire, c'è tutto il tema forte del lavoro, del talento, dell'ingegno, del mettere a disposizione la risorsa umana, che viene prima della dimensione invece della speculativa, del capitale, esatto, quant'altro, esatto. E quindi è una dimensione attenta anche a una dimensione di impresa, soprattutto nel tema della cooperazione, la partecipazione dei lavoratori agli utili appunto della stessa azienda, un meccanismo non conflittuale tra datori di lavoro e dipendenti, perché ci troviamo tra l'altro invece in una situazione storica in cui lui diceva inaugurava un pensiero di una possibile terza via tra l'ateismo, esatto, rivoluzionario, sì, e il liberalismo senza regole, esattamente. Sì. Quindi questo era un altro aspetto del Toniolo docente, del Toniolo pensatore, che lascia ad oggi, no, a noi, con una serie di riviste, di trattati, di opere, un pensiero di grande spessore. Poi c'è il grande tema del cristiano laico, Giuseppe Toniolo, impegnato nei temi della Chiesa e della società. Lui è stato una persona che ha vissuto, vorremmo dire, in anticipo rispetto al Concilio Vaticano II, questa dimensione di essere no, cristiano laico, di seguire la sua vocazione di laico che anima la dimensione temporale e la dimensione spirituale, laico soprattutto dentro, quindi, sì, la esatto. vicenda ecclesiale, quindi lui certo. partecipa a tutta la vicenda dell'opera dei congressi, poi diventa presidente dell'Unione Popolare, poi ha una straordinaria iniziative in campo appunto delle relazioni con le varie università, è amico di sacerdoti, di vescovi, di papa, è ispiratore della Rerum Novarum di Leone XIII, poi diventa il propugnatore delle settimane sociali che abbiamo ricordato, le settimane certo. sociali dei sì, cattolici sì. italiani, la prima sì. è nata a Pistoia nel 1907, l'abbiamo ricordato di recente, è il grande, è colui che disegna la necessità che ci potesse essere un grande istituto di cultura superiore dell'Università Cattolica, infatti l'Istituto Toniolo oggi ricorda dentro l'Università Cattolica il fatto che la prima intuizione, il primo pensiero espresso dell'Università Cattolica è legato a Giuseppe Toniolo. Quindi capite, una figura che tra l'altro stimatissima, riconosciuta a livello nazionale e internazionale, una persona che poi in questo ruolo guida, perché è un leader del movimento cattolico, certo, non solo italiano sì, ma sì. europeo, tra fine 800 e inizio 900, noi facciamo anche risaltare la qualità della sua personalità. Cioè è sempre stato un uomo straordinariamente umile, che ha pagato anche il prezzo di quel tempo delle tensioni che c'erano all'interno del movimento cattolico, seppe anche fare i passi indietro laddove ha capito e capiva che la sua comunque funzione, il suo ruolo non era, come dire, era quel segnale di unità, perché evidentemente i conflitti in quel tempo erano, ha patito anche così proprio sulla sua pelle, insomma, le esperienze anche di contrapposizione, però un uomo che mise sempre il primato di Dio come motore, come riferimento, ecco, della sua vita e dentro il contesto ecclesiale. Altra cosa importante che mi permetterei di ricordare proprio in questa carrellata brevissima è il fatto che lui abbia una visione della cultura europea e anche ebbe una grande tensione verso il tema della pace, soprattutto negli ultimi anni, quando lui diventa testimone, inevitabilmente lui è morto nel 18, sì. e da testimone della inutile strage, esattamente. Ricordiamo guerra, oggi cent'anni sì. dalla nascita dello scoppio della prima guerra mondiale, lui lancia un appello allora a Benedetto XV e dice: vorrei che nascesse un istituto internazionale per la pace sotto l'egida, lui diceva a quel tempo, no, del papato, perché questa vicenda della guerra non abbia più a ripetersi, quindi un grande istituto per la cooperazione tra i popoli e tra gli stati. Questo è stato ripreso, questa intuizione, che è stata una lettera, che è stata un manifesto, che è stata una volontà espressa dal Toniolo, è stata ripresa proprio dalla Presidenza Nazionale dell'Azione Cattolica nell'anno 2000, ed è cioè, un istituto internazionale per la pace proprio a lui ispirato, che sta facendo e fa cultura, convegni, iniziative, sensibilizzazione, soprattutto nel mese della pace, gennaio, con l'associazione, ma anche tutto l'anno con comitato scientifico e con direttore. Bene. Quindi per dire, anche su questo troviamo degli spunti una di riflessione che è stata... In questo senso noi oggi godiamo del legame che a Treviso, essendo qui nato, poi nella chiesa di Sant'Andrea c'è l'effigie che ricorda il battesimo avvenuto a quel tempo, ma poi il legame, lo dico perché da Pivigino, insomma, diocesi di Vittorio Veneto, sto fatto di avere da sempre, insomma, ecco, oggi questo beato per cui c'è il comitato adesso nuovo per la santificazione. Ah. Questo beato, sì, averlo, come dire, in casa per noi è stato un motivo. Beh, sì. Io voglio dire un privilegio, un dono e di una responsabilità. Esatto, un onere anche di promozione. Perché io sono una terra di, appunto, di Toniolo, di Fabbri, di Francesco Fabbri, di Zanzotto, di Don Mario Gerlin, altra figura. Anche Mario Gerlin. Ecco, sì. E allora il Toniolo, come dire, illumina questo quadro di una storia anche legata all'ispirazione cristiana che è di straordinaria comunque levatura. Allora noi dobbiamo decidere se tutto questo appartiene a un museo o a un archivio, o su tutto questo può diventare invece motivo per una vicenda nuova oggi nei tempi della modernità, cristianamente ispirata. Noi oggi abbiamo bisogno che un recupero di valori, di prospettiva, di ispirazione, di movimento, di creatività attorno a questi temi che sono i valori che negli ideali non muoiono mai, sono legati alla buona novella, al Vangelo, alla dottrina sociale della Chiesa. Allora, da questo punto di vista c'è stata un'opera che noi in particolare abbiamo così messo in campo, credo con entusiasmo, con una forte sollecitazione di tutta la diocesi per questo riguardo a questo comitato per la beatificazione. Abbiamo in quel decennio, a partire da un convegno che abbiamo fatto a Castelbrando di Cison nel 2001, la presenza anche di allora di Andreotti, è stata forse l'ultima apparizione che ha avuto e tutta una serie di figure del mondo cattolico, del mondo cooperativo, delle ACLI, della zona. Quindi a partire da quel convegno del 2001 noi abbiamo lavorato 10 anni proprio con questa serie di iniziative, sono nate associazioni, abbiamo presentato testi, volumi, soprattutto anche questo riferimento mensile del setto. Sostanzialmente poi abbiamo avuto anche il privilegio che a Pieve è avvenuto nel 2006 il miracolo che poi ha garantito, è stato la beatificazione. Un imprenditore, un giovane imprenditore che cade rovinosamente da un'altezza, sembrava, i medici avevano già dichiarato che la situazione era irrecuperabile, e invece ci fu come dire, il segno forte di iniziativa, di speranza, di coraggio della famiglia. Si rivolge alla parrocchia, la comunità cristiana di Pieve comincia a pregare, vengono raccolte anche delle piccole reliquie del Toniolo, era praticamente frammenti di una coperta che lui teneva sempre in grembo quando negli ultimi anni della sua vecchiaia. Questi vengono posti anche sotto il cuscino, oltre alla preghiera che c'è, e c'è, alla fine poi c'è questo risveglio e questo ritornare da un coma irreversibile di questo Francesco Bortolini. Certificato ovviamente con processo canonico che c'è stato a Pieve, che poi c'è stato congiuntamente a livello Vaticano con i sacerdoti. Quindi lo faranno anche santo poi, insomma. Ecco, nel comitato adesso è diventato comitato per la santificazione, ci vorrà una nuova testimonianza dall'alto, diciamo, miracolosa, però siamo impegnati anche per questo. Insomma. Quindi sapete la gioia di tutte le realtà che hanno promosso la causa, ma Vittorio Veneto e Pio di Solino in particolare nel 2012 ha partecipato con una grandissima festa alla beatificazione che si è svolta a San Paolo fuori le mura. Bene, molto, molto interessante. Sì, molto interessante. Allora, ci fermiamo o proseguiamo? Ma direi che proseguire ancora qualche minuto. Ecco, allora, che cosa, poi è nato una cosa che così che sento, insomma, ecco, di comunicare. Abbiamo visto poi, nel concreto, che a partire dal 2012, in particolare, insomma, perché poi la tomba è sempre stata un po' meta, no? Di tante espressioni del mondo cattolico negli anni. E abbiamo visto che hanno cominciato in particolare, ecco, con una grande, un numero sempre più copioso, ad essere presenti a Pieve di Solio una serie di delegazioni, di visite, di gruppi guidati, gruppi organizzati, di associazioni del mondo cattolico, di realtà un po' da varie parti del Triveneto, ma anche da varie parti d'Italia. Okay. Allora, come parrocchia di Pieve di Solio in particolare, guidati dall'arciprete Monsignor Nadal, abbiamo pensato di mettere in piedi un primo dato di accoglienza, di incontro con i visitatori, di visita alla chiesa, alla tomba. Abbiamo poi, visto gli ambienti vicini alla parrocchia, coltivato la possibilità di parlare del Toniolo, di relazionarsi, di illustrare un po' la storia, quello che era avvenuto, la vicenda della causa beatificazione e quant'altro. E abbiamo visto che cresceva, ecco, un interesse che era l'interesse per il Toniolo e l'interesse anche per tutta una serie di realtà, di testimonianze, di luoghi, di spiritualità e di ambienti che circostanti. Allora c'era ovviamente il Duomo di Pieve di Solio, ma veniva veniva poi citata l'Abbazia di Follina, per esempio, uh-huh. monastero cistercensense di straordinaria bellezza. Mm-hmm. San Pietro di Felete, altra pieve millenaria, altra pieve, e qui un legame anche con il Papa Roncalli, perché Giovanni XXIII, santo, divenuto santo nel frattempo, da patriarca si recava spesso a San Pietro di Felete nella casa del patriarcato, no? E quindi c'era anche un ricordo, una testimonianza. E poi non parliamo di Vittorio Veneto, dove c'è stato per 11 anni Papa Luciani, la prima esperienza da vescovo. Una serie di altre realtà e altri profili che molto vicini, la Beata Giuliana di Collalto, il Beato Fra Claudio Granzotto, lo scultore diventato beato proprio di Santa Lucia, poi la Beata Maria Pia Mastena, fondatrice della Congregazione del Sacro Volto, sepolta anche lei invece una cripta della chiesa di San Fior. Tutta una serie di realtà, per finire poi la Basilica di Motta. Su questo abbiamo fatto, anche personalmente devo dire, ho ideato un percorso che magari andremo poi alla prossima certamente. Grazie. È straordinario questa promozione corale, che è quella che è necessaria, io ritengo, e insostituibile per dare effettivamente forza alle iniziative che altrimenti potrebbero essere calate dall'alto, ma senza alcun riscontro. Qui siamo nati proprio, l'esperienza è nata dal basso. Loro lo vivono questa cosa, per cui sì. Benissimo, allora direi di lasciare spazio per il nuovo intervallo musicale. Che appunto ci presenteranno Fausto Leali e Anna Orsa, ti lascerò. Lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. Che sbagliare ti lascerò, ti lascerò decidere per chi sarà il tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo al suo coraggio, di cambiare Bene, eccoci di nuovo in studio e allora, come ormai non dico tradizione, ma insomma ogni tanto cerchiamo di dare qualche frammento di storie de che altri, in termini di poesia naturalmente, perché deve essere una sintesi breve, poesie di, in varie lingue che poi verranno, come dire, declinate in italiano. Per questa volta noi abbiamo così scelto un sonetto del bardo William Shakespeare, il sonetto numero 4, Sonnet 4. Unthrifty loveliness, why dost thou spend upon thyself thy beauty's legacy? Nature's bequest gives nothing but doth lend, and being frank she lends to those are free. Then, beauteous niggard, why dost thou abuse the bounteous largess given thee to give? Profitless usurer, why dost thou use so great a sum of sums, yet canst not live? For having traffic with thyself alone, thou of thyself, thy sweet self, dost deceive. Then how, when nature calls thee to be gone, what acceptable audit canst thou live? Why, thy unused beauty must be tombed with thee, which used lives the executor to be. Adesso leggiamo il sonetto in italiano. Prodiga grazia, perché spendi solo per te il patrimonio della tua bellezza? Il lascito dalla natura non è che un prestito, è generosa, essa la presta a quelli che tali sono. Quindi, ricco avaro, perché abusi delle generose offerte date per essere donate? Arido usuraio, perché sperperi questa enorme ricchezza senza riuscire a vivere? Speculando soltanto per te stesso, defraudi la tua bella persona del tuo io, e quando natura ti chiamerà all'appello, qual valida prova potrai tu lasciare? La tua inutile bellezza sarà con te sepolta. Se invece l'userai, vivrà per eternarti. Ecco, qui non potevamo scegliere, sembra quasi che ci siamo trovati prima per definire. Non so, mi sembra che è un qualcosa di straordinario, o no? Sì, c'è un afflato spirituale, e, come dire, che è sospeso, ma che trova, credo, nella... una nostalgia di sentimenti profondi. Insomma, esatto. Ecco, questo credo che oggi sia anche questo, ricordare figure che possono dare oggi il segno, insomma, che c'è, mamma mia, speranza, esatto, voglia, creatività, coraggio. Sì. È proprio quello smarrimento collettivo, sì, che sì, oggi noi oggi la invece cifra. A quell'esempio, a quei modelli, a quelle persone che in tempi non meno difficili di oggi hanno saputo, come dire, è stato definito l'uomo, oltre che Vangelo vivente, l'uomo di indomita speranza, cioè l'uomo sì, che ha straordinaria creatività, sì, ha saputo rispondere non contemplando le macerie o le rovine o le difficoltà, diremo oggi al nostro tempo, esatto, ma da cristiano con quel carisma in più, con quella forza in più, con quella energia in più che viene dalla fede, dimensione della fede. Che è la dimensione cristiana. Che è la dimensione cristiana. Sì. Allora su questo mi ricordo il patriarca Moraglia, quando è venuto il 6 giugno del 2012 a chiudere le celebrazioni a Pieve di Soligo per quanto riguarda appunto la beatificazione del Tognolo, lo ha definito un sale saporoso. E a me rimane sempre impressa, ho partecipato anche di recente alla beatificazione di Caburlotto a Venezia in piazza San Marco, e come a dire, ecco la testimonianza di queste persone che non nascondono la luce, che tengono la lampada sotto il moggio, che non distribuiscono cose che non hanno sapore, ecco il tema di oggi, o la tiepidezza di chi oggi, no, vero, i cristiani, i tiepidi vivono vitero dalla bocca, cioè la serie, oggi non è più tempo di questo, è tempo certamente di una presenza, di un dialogo rispettoso con tutti, ma è tempo anche di dare segno, di dare luce, di impegno, di speranza, di impegno, sì, esatto, di essere su queste vie, memori di tutte le fatiche che ci sono stati, ma al tempo stesso proprio come dire, assumendo in proprio quelle fatiche, quelle difficoltà, quel riscatto. Penso alla terra veneta, no? Quanti anni siamo passati da essere la terra dell'emigrazione, della miseria, alla terra di una delle regioni più ricche nel quale del mondo. Anche come se adesso, a dire, un riscatto che ovviamente ha trovato anche nella dimensione di fede, della famiglia, delle persone, una luce importante di riferimento. Con i contraccolpi attuali che ben sappiamo. Però su questo è per dire che noi a queste figure non andiamo semplicemente con un intento storiografico o di memoria. Come immaginare, diciamo, come sarebbe, Santino, ma sarebbe proprio come per dare oggi nuova luce, nuova linfa e nuova, a una storia, e nuova speranza, perché presumo. Giustamente il postellatore, l'arcivescovo Sorrentino, direbbe: la storia dei cattolici italiani, anche rispetto ai temi del bene comune, dell'impegno sociale, non si potrebbe fare senza il Tognolo. Cioè Sturzo e De Gasperi, ad esempio, non si possono comprendere se non con la visione d'insieme, con l'organizzazione. Il primo tema, democrazia cristiana, è la prima espressione, lui la pensava come un ordinamento in cui tutte le parti convergono con la finalità per il bene comune, valorizzando soprattutto le parti, perché il tema del solidarismo è la promozione dei deboli, il riscatto dei deboli. Quando noi parlavamo prima dell'etica e dell'economia, Tognolo, il suo pensiero era proprio quello applicato alla concretezza dei dati, cioè della serie. Lui era persona, un grande osservatore, quando veniva nel Veneto, anche rispetto alle vicende della Toscana, lui colloquiava con gli imprenditori, conosceva le vicende purtroppo di quel tempo anche degli operai, sapeva che c'erano le donne che non avevano il permesso né festivo, lavoravano di notte, i bambini. Cioè, rispetto a queste questioni qua, il Tognolo pone la necessità che ci siano, come dire, un'espressione di rispetto, di attenzione. Il famoso solidarismo cattolico nasce proprio con l'attenzione a promuovere le istanze dei più deboli, quindi un'ottica di giustizia e di bene in cui c'è il primato della persona rispetto alle dimensioni dell'economia e del profitto. Allora, su questo è chiaro che noi oggi assumiamo una lezione che vale, profondamente attuale, e su questo noi dobbiamo, come dire, reimpostare anche quei temi famosi della dottrina sociale della Chiesa, saperli, come dire, esprimere dentro un contesto che è sicuramente mutato, ma che oggi ha bisogno esattamente di questo tipo di visione, di questo tipo fare di prospettiva. Fare cassa di risonanza in qualche modo. Ci sia veramente bisogno, perché siamo... Allora, su questo stavo appunto dicendo qui, il sale saporoso vuol dire che il Tognolo, a questo punto di vista, lascia per noi oggi il segno di una doverosa riscoperta, che non vuol dire, appunto, e sarebbe già importante, una dimensione culturale della comunistica, ma vuol dire anche una capacità di mettere in moto rispetto al nostro territorio, perché lui è stato un santo che ha saputo, insomma, come dire, dare risposte nuove, mettere in moto energie, tutto quello che ho detto prima, che è stata la sua intrapresa anche dal punto di vista culturale. Ecco, io molto modestamente ho pensato che, vista l'esperienza concreta che registravamo nel nostro territorio, a partire dai primi mesi del 2013, proprio perché c'era il Comitato per la Beatificazione che voleva già costruire, realizzare degli opuscoli, un materiale anche, come dire, divulgativo, sì, no? Certo. Per queste esperienze che erano già in atto. Allora ho messo in moto un progetto che, guarda caso, poi ha trovato una... che la diocesi, il Comitato per la Beatificazione, prima la diocesi Vittorio Veneto, in particolare attraverso il vicario Monsignor Zagonel, ha assunto in pieno, di costruire un percorso di valorizzazione, di promozione della figura del Tognolo, di promozione di una via dei santi che abbiamo trovato e abbiamo identificato nella diocesi Vittorio Veneto, e anche di un'ottica di valorizzazione di un turismo religioso che oggi è uno dei grandi temi di modernità, di attenzione rispetto ai numeri molto importanti che ci sono nel nostro paese, ma a livello internazionale. Allora, da questo, ripeto, è partita come una intuizione, si è sviluppata in che modo? Ho curato una mappa, ho curato una mappa di questa possibile via dei santi, ho curato una brochure, una pubblicazione sul legame sul Tognolo e sul legame tra il Tognolo, in particolare Pieve di Soligo, passando attraverso appunto la vicenda della moglie e quant'altro, e dei legami con le nostre comunità, e abbiamo allestito anche un sito internet che è beatotognolo.it, su cui noi teniamo aggiornati questo tipo di percorso, che è Giuseppe Tognolo, innanzitutto, secondo la via dei santi, quindi con quelle figure che citavo prima, terzo il territorio, perché noi crediamo che provvidenzialmente, insomma, la vicenda del Tognolo, di Pieve di Soligo in particolare, sia collegata a pieno titolo a un ambiente naturale, storico, artistico, religioso di grande valenza. Un cammino tra fede e territorio. Il titolo è esattamente questo: Beato Toniolo, le vie dei Santi, un cammino tra fede e territorio. Come a dire, tutto quello che è legato al Toniolo è squisitamente umano nell'ottica, e allora il buon Dio si è, come dire, compiaciuto anche di una bellezza che si esprime e che dà il senso di un qualcosa che è di buono, no? Una cosa molto buona. Le eccellenze del territorio. Del territorio sono, come dire, andare alla riscoperta di una dimensione religiosa, a partire dal Beato Toniolo e da quelle figure che dicevo, sì, però in un contesto che offre una piacevolezza di spirito per l'anima, per la ricreazione, per la comunicazione, per il viaggio insieme, per un turismo che sia davvero, come dire, alle radici di un'esperienza che nel nostro territorio si è manifestata con tanta bellezza, con tanta a misura comunicazione. D'uomo e di credente. Esattamente. Credente. Allora, su questo è nato questo progetto, con questo logo, che ha messo in moto una serie di iniziative che stiamo sviluppando così, anche che, come dire, in rete, partendo dal basso, valorizzando talenti e competenze che sono sul territorio. Che hanno saputo e che stanno apprezzando molto questa idea, che poi è un'idea proprio partecipata e condivisa di attenzione e di valorizzazione di quello che siamo, delle nostre radici, della nostra storia, di tutto quello che ci è stato consegnato. E qua torna il tema di un dono e di una responsabilità. Ci è stata consegnata la bellezza di una testimonianza storica, artistica. Noi dobbiamo, da questo punto di vista, assumere la bellezza di tutto questo e cercare oggi, in un tempo in cui magari con un occhio anche proprio a un ritorno in termini di valorizzazione piena di un'area, perché per noi vuol dire anche che c'è una riscoperta anche di tutte le altre eccellenze del territorio, che vuol dire anche la dimensione culturale, sociale, enogastronomica, tutto quello che di prodotti tipici, tutto quello che era ed è, tra l'altro, e qua magari sottolineo, con un progetto a costo zero, perché è stato, guarda caso, nello spirito del Toniolo, è stato sostenuto da tre realtà che hanno uno spirito cooperativistico, proprio tonioliano, come la Banca Prealpi di Tarso, la Latteria di Soligo e la Cooperativa Sociale Insieme Si Può, Fondazione Ispirazione, che sono tutte legate, per una alimentare, una del credito, una sociale, comunque al pensiero del Toniolo, al tema della cooperazione. Esatto. Quindi a questo punto di vista, quindi, c'è stato anche questo loro intervento come testimonial, che hanno garantito così anche questo il sostegno. È un esempio di integrazione, diciamo, di forze e compagnia, e un esempio di riscoperta di identità, che questo è il dramma nostrano, il dramma internazionale, diciamo, la perdita di identità. Pensiamo al collegamento, perché il tema, la vita del Toniolo, il pensiero del Toniolo, il tempo del Toniolo è stato, fine 800, inizio 900, la nascita delle banche di credito cooperativo, delle mutue, delle cooperative agricole, di tutto quello che ha segnato il nostro territorio, la Marca, l'Alta Marca, in quel periodo. Quindi storicamente, come dire, il Toniolo entra nella dimensione statutaria della Latteria di Soligo, è tra gli ispiratori di tutta la vicenda cooperativistica, figura in tante cooperative sociali, insieme si può anche come punto di riferimento di un bagaglio di valori, di esperienze. E quindi capite che oggi vuol dire andare alle radici e al tempo stesso declinare nella modernità questo spirito di cui noi abbiamo bisogno. Insieme si può. Eccellente. Sì, adesso allora noi andiamo con un'altra canzone, cantata da Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa saprei. E non mi son serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai. Domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai. Beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza spesa a dare, dare, dare, non ho salvato niente, neanche te. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche della nostra trasmissione con il nostro dottor Zabotti, Marco. Marco è il nome di mio figlio, quindi me lo ricordo bene. la terra di San Marco. Sì, ecco, la cosa che mi pare, ecco, interessante in questa ottica di rete, in questa ottica di sussidiarietà, in questa ottica di un qualcosa che appartiene strutturalmente come identità proprio al mondo cattolico, è stata questa iniziativa che abbiamo messo in moto, quindi Beato Tognolo e le vie dei Santi, un cammino tra fede e territorio. A un certo punto noi abbiamo assunto questo meccanismo di comunicazione, il libretto, la mappa, multipiattaforma, il sito internet, questo è stato assunto da Diocesi, come dicevo prima. Che cosa è nato a fianco di questo? Beh, l'idea, da un lato, che siamo entrati poi nel meccanismo, fortunatamente, devo dire, perché poi la Regione Veneto, proprio in quell'estate lì, mise in campo una delibera e una, come dire, un'indicazione progettuale di sostegno a progetti legati al turismo religioso. Quindi è nata progressivamente Cross Veneto, che appunto è stata, nell'arco di un anno, ha messo in moto un percorso proprio di attenzione e di promozione del turismo religioso in Veneto. Quindi su questo devo dire che c'è stato anche un riconoscimento, grazie a una serie di contatti, di divisioni comuni, di ricerche anche sul nostro territorio, un riconoscimento, perché la diocesi è venuta, la Regione Veneto è venuta proprio nell'ottobre dello scorso anno a Vittorio Veneto a presentare questo nuovo progetto di turismo religioso, che vuol dire anche, come dire, un entrare in rete con la regione per quanto riguarda la promozione di questi percorsi. Questi da un lato. Dall'altro lato noi abbiamo però voluto, come dire, arrivare a questo appuntamento con qualcosa che fosse di concreto nostro. Ed è stato, come dire, un riprendere in mano, ecco, in quell'ottica di responsabilità, e questa idea di questo patrimonio culturale e religioso a partire dal Toniolo, no? E quindi ha voluto dire che è nato un gruppo, spontaneamente abbiamo ragionato, è nato un gruppo di persone di varie età, però tutte interessate, tutte con esperienze, chi universitarie, chi di scuola superiore, comunque con esperienze proprio di persone culturalmente sensibili e attente a questa dimensione, che hanno voluto, come dire, mettere in moto un meccanismo di formazione, di attenzione rispetto a questo processo. Cosa è nato? È nato questo gruppo di una cinquantina, ecco, di volontari che hanno frequentato un corso biennale di lezioni serali e di visite in circuito ai siti compresi, quindi alle chiese in particolare, full immersion, diciamo, ecco. Compresi in questo percorso, quindi biennale, che abbiamo voluto, quindi che è stato, come dire, coronato da successo, perché ci sono stati relatori il primo anno sui temi legati proprio all'identità storica, culturale e religiosa della nostra diocesi, e quest'anno nel comunicare il sacro, con la presenza tra l'altro anche del professor Bernardi e di altri. Come a dire, abbiamo voluto marcare fino in fondo questo, come dire, la valenza, ecco, culturale di questa progettualità, fare in modo che il Beato Toniolo e le Vie di Santi diventi, come dire, un logo, un punto di riferimento per una serie di iniziative, di presentazioni di libri, concerti, esatto, seminari, qualcosa che dia questa riflessione, questa indicazione forte di contenuti, e al tempo stesso fare in modo che attorno a questo ci potesse sviluppare a partire dalla Chiesa diocesana, cioè, come dire, senza entrare nel merito del tema del turismo, delle guide turistiche e quant'altro, a sentire come Chiesa questa idea di un'accoglienza, di una valorizzazione dei nostri siti, dei nostri percorsi. E cosa è nato? L'idea, abbiamo voluto traguardare dopo questo percorso biennale, di far nascere, di aprire proprio le nostre chiese, le prime comprese nella mappa, ma poi ce ne sono aggiunte altre grazie a questo percorso, proprio nel mese di maggio. Quindi anche in questa giornata, questo 31 maggio, noi abbiamo così potuto verificare la quinta domenica in cui le persone in 21 chiese della nostra diocesi hanno potuto accogliere i turisti, i pellegrini, hanno potuto anche far conoscere, bellissimo, insomma, le dimensioni, certo, storiche, le dimensioni culturali che avevano, certo, appreso anche durante il corso. Quindi è stato un modo di traguardare anche per, come dire, per portare anche a compimento questo primo percorso biennale. E su questo si sta sviluppando una collaborazione che è sia sul versante con altre diocesi, a partire da Belluno, e sia sul versante poi istituzionale con la regione. Quello che mi preme sottolineare è che tutto questo nasce perché c'è uno spirito di gruppo, c'è una voglia comunitario. E qui non posso non citare la diocesi, ma in particolare l'ufficio di arte sacra, coordinato e diretto dalla professoressa Cristina Falsarella, che su questo ha messo in moto una collaborazione, una disponibilità, un entusiasmo che è stato assolutamente contagioso. Bene. Cui se oggi abbiamo messo in moto questa iniziativa che, insomma, con una prima intuizione, ma che, insomma, si sta sviluppando, abbiamo richiesta di enti, di varie realtà del territorio, di poter entrare in sintonia e sinergia con loro per potenziare tutto il meccanismo che poi diventi un qualcosa che abbia ulteriori dinamiche e ritorni, ecco, su nella dimensione nostra territoriale, però aperta in rete, perché il Veneto è terra straordinaria, è la prima regione turistica d'Italia, e in questo senso il nostro territorio è ulteriormente privilegiato perché ha delle testimonianze di primari, di grandissima eccellenza. Allora, su questo noi dobbiamo, come dire, valorizzazione è fondamentale di quello che abbiamo, cioè di quello che noi non dobbiamo inventare, ma che dobbiamo, come dire, portare con la forza, la dignità e la capacità di dire: valorizziamo quello che i padri nostri ci hanno donato. Spesso misconosciuto, anzi quasi sempre misconosciuto, devo dire. E in questo senso devo dire sempre, ritorna questa idea che il Toniolo è stato un cristiano laico esemplare, che ha vissuto fino in fondo il suo tempo, lo ha fatto con grande cultura ma straordinaria e squisita umanità. In questo senso c'è la sua, questo essere è beato, il fondamento, sì, perché è modello da questo punto di vista, è modello come uomo, è modello come sposo, è modello come padre. Noi a Pievisolio Ligure abbiamo voluto anche ricordare la casa in cui lui veniva poi durante le ferie estive. L'Azione Cattolica ha posato una lapide in cui l'ha ricordato, una casa vicino al Duomo. Lui era una persona di straordinaria umiltà, era un uomo di carità, donava il suo paltò, le sue scarpe ai poveri. Spirito cristiano. Si metteva nell'ottica di contrattare con gli imprenditori locali dicendo: guardate che voi dovete alzare la mercede a questi operai qua. Si metteva nell'ottica non solo di un pensiero economico, ma anche di una concretezza di dato, di solidarietà, di carità. E in questo senso, quindi, la bellezza anche per noi, oggi che in cui è tanto dibattuto il tema della famiglia, andare alle radici di quell'esperienza di chiesa domestica che era dentro la casa Toniolo a Pisa, con questa nostra pievigina Maria Schiratti, e che, in cui lui diceva: parrebbemi che con te dovesse diventare più facile la via al cielo, quei doveri che la provvidenza mi impone con te diventeranno di una facilità straordinaria. Allora, con questa finezza, con questa delicatezza, questa diversità di carattere, però i figli, le testimonianze di cresciuti in un ambiente in cui la preghiera c'era sempre, c'era il commento delle scritture, c'era la frequentazione, le confessioni, la messa, c'era una visione di beatitudine cristiana, ecco. Sì, in questo senso noi oggi vogliamo anche riscoprire fino in fondo questa idea che è possibile, che c'è una santità possibile per il nostro tempo, non qualcosa che venga affidata solo alle geografie, ma che oggi ci sono figure, ecco, e tracce di santità di tante persone, di tante famiglie che con umiltà, nel silenzio, senza clamore, senza ogni clamore, giorno ecco, danno una risposta, esatto, di grande, vero, fede, esatto, di grande, esatto, esatto. E su questo noi crediamo, per noi vale oggi questa, l'attualità del Tognolo vuol dire anche avere questa attenzione verso la dinamica della santità che è la universale vocazione della, dei cristiani, e su questo sì, noi dobbiamo, come dire, tenere alta la misura, una misura alta della vita cristiana, noi dovremmo, esatto, come dire, essere ancora più forti nel, certo, più, nel promuovere, certo, una, insomma, testimonianza sincera, ah, certo, e non come posso dire, né casuale, né casuale né blanda, perché né blanda, il problema è neanche esibita, giustamente come vi ho chiamato prima, con quella attenzione rispettosa verso tutti, rispettosa, esatto, però è nello stile, è nel modo, è nel sorriso, è nella capacità di solidarietà, è nella storia, no? nella storia personale, che poi nella propria convinzione di diventa cristiano, credibile, chiaramente, tutto. Esatto, tutto, e questo è il fondamento. Comunque, diciamo che è un qualcosa che come dire, è antico ma sempre nuovo. Non ti sembra neanche di essere del nostro mondo sentir parlare di queste, dire, cose? Ma devo dire, effettivamente è una cosa che stupisce, sì, sempre. Appunto. Cioè, si ricorda di cose che insomma, sì, sembrano appunto lontanissime nel tempo e sono di una qualità straordinaria. Infatti sì, io continuo a dire, oltre il pensiero, perché è il pensiero della figura internazionale, e dopo con tutto rispetto, io, ma tante persone, lo sentiamo vicino a Tognolo perché è un cristiano laico, cioè è uno sposo, è un padre di famiglia, una persona che è stata protagonista del suo ambiente, nella vita, nel suo lavoro, nella sua espressione di docente, nella vita della Chiesa, nella vita della società. Uno specchio per noi che siamo, come dire, cristiani, esatto, attuali. C'è la santità possibile, non come dire del missionario, certo, della, certo, suora, certo, della fondatrice, cioè, esattamente, legata alla vicenda religiosa, nella pratica, no, quotidiana. Invece sì, oggi c'è tutto un mondo, sì, il mondo oggi, se ci sarà un'evangelizzazione nuova, se ci sarà una, sarà perché un protagonismo nuovo dei cristiani laici, ma senza mandati, ma senza pensare che ci debbano essere, come dire, gli avalli dei pastori. Esattamente. È una santità da vivere e da mettere in moto con energia, con creatività ogni giorno. Straordinario. Bello, devo bello, dire molto che bello. Sono, hai visto che sorpresa, che pareva la convinzione, la passione, la tenacia, Non certo, nascono proprio da quello spirito cristiano che è il fondamento. Il fondamento nostro. E non abbiamo altre parole, ce ne sarebbero molte più da dire. Più che ringraziarlo, ma noi vogliamo ringraziare e naturalmente sì, chiedere al nostro ospite di tornare una prossima volta. Certo. Volentieri, sono io che vi ringrazio per la possibilità. No, grazie a lei, è stato veramente gentile. E salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Dando appuntamento alla prossima volta. Alla prossima. A Dio ti accenda. Ecco, e dico sempre come mio solito. Ciao, ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.